Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, sì, va bene, non fare il direttore d'orchestra che non ti possono vedere gli ascoltatori. Ma mentre... mi vedi tu, ecco, ma vuoi esatto. dire che soddisfazione. Che è tutto un programma. Alla fine hai letto che ci ha ripensato Andrea Bocelli? Non si esibirà più in occasione dell'Inauguration Day per l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Allora voi direte, perché raccontiamo questa notizia? Perché l'avevamo data anche al contrario, quando aveva deciso invece di partecipare a questa al cerimonia appunto di insediamento. Adesso, avendo fatto retromarcia, ci piace tenere al corrente i nostri ascoltatori di tutti i cambiamenti. Vuol dire che dobbiamo, secondo te, aspettarci la telefonata di Donald Trump nei prossimi giorni? Toccherà a noi fare una puntata speciale. Io gli ho già detto che il 20 non posso, e stai attenta gennaio, il 21 certo, sì. E il 21 anch'io attenta, ho degli impegni sì. Adesso e attenta a non dire, a non dare un ok per il 21, perché ho letto sul Corriere che i figli che guidano questa organizzazione no profit offrono a chi è disposto a staccare generosi assegni la possibilità di partecipare a eventi privati e incontri con il presidente eletto. Poi le donazioni vanno da $25,000 a un milione, e dicono gli organizzatori saranno devoluti a non meglio precisati enti di beneficenza. L'invito da $1,000,000 include anche un incontro privato e foto con Trump, quindi stiamo a casa. Allora, in ogni caso, il rifiuto del tenore nostrano sarebbe arrivato in seguito alle tante polemiche e al clamore suscitato anche tra i suoi fan dopo la notizia appunto della sua partecipazione a questo evento. Era stato perfino lanciato un hashtag boicotta Bocelli. Pensa tu. Comunque, questo tanto per dire quanto dire che la gente c'ha tanto da c'ha fare. Veramente poco da fare, direi, ecco. Però a dimostrazione che la forza dei social si conferma in tutta la sua potenza. Detto questo, noi torneremo oggi, abbassiamo subito la finestra su questo argomento al quale abbiamo già dedicato, credo, fin troppo spazio. Oggi parleremo dei nostri temi importanti. Allora, per la pagina di denari ti parlerò, Nicoletta, di case e mutui, faremo un bilancio di fine anno e soprattutto daremo qualche, speriamo, utile suggerimento a chi vuole prendersi questo impegno finanziario. Nel 2017 compro casa, sottoscrivo il mutuo, a quali condizioni lo farò? Tu cosa ci proponi? Allora, io vi parlerò di uomini, perché anticipiamo l'appuntamento con Salute Uomo per darmi modo di prepararvi per le feste, a fare festa e a conclusione di un anno, come sempre, doveroso fare un bilancio. Abbiamo fatto tanta strada insieme a voi, abbiamo affrontato un argomento da cui molti si erano tenuti fuori, perché si sa che gli uomini con la salute hanno un rapporto molto strano, c'è chi va in ansia, chi fa lo struzzo. Noi abbiamo lavorato sul concetto di prevenzione, un approccio, non mi piace molto il termine, ma direi che qua ci sta, olistico, e quindi oggi ritorna Andrea Salogna con noi, e una puntata ricca di spunti, suggerimenti, raccomandazioni e confronti. Vi aspettiamo. La rassegna stampa la faccio molto rapida questa mattina, do il consueto quadro di borsa, perché quando ce ne dimentichiamo i nostri ascoltatori subito si lamentano, e allora, visto che l'appuntamento è fisso, lo rispettiamo. Milano meno 0,38% sul FTSE MIB, Parigi meno 0,18%, Francoforte più 0,06%, Londra più 0,10%, il classico quadro che si definisce contrastato fra listini europei. A Milano tiene banco ancora il caso Mediaset, titolo del Biscione era partito con un rialzo di 5 punti anche stamattina, adesso limita a più 2%, ma come sapete è in corso la scalata ostile dei francesi di Vivendi, che hanno comunicato ieri di detenere al momento il 25,75% del capitale, con l'obiettivo a breve di arrivare al 29,9% quando su questa soglia avrà una effettiva minoranza di blocco, ed è al di sotto, appena di sotto del limite appunto necessario per superato il quale appunto è obbligatorio in realtà formulare un'offerta pubblica d'acquisto. Mediaset prova a difendersi in ogni modo per le vie legali, passando anche attraverso denunce non solo alla Consob, all'autorità garante delle comunicazioni, ma insomma sarà un Natale caldo da questo punto di vista. Lo sarà anche per Monte dei Paschi, così meno 16,5% in questo momento a Piazza Affari. Allora, domani termina l'aumento di capitale, mentre oggi alle 14 è il termine ultimo per l'adesione volontaria alla conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, e oggi pomeriggio il consiglio di amministrazione del gruppo farà un punto della situazione sulle adesioni, ma il mercato sembra sempre più orientato a pensare all'arrivo di una nazionalizzazione temporanea per la banca. Anche da questo punto di vista sarà sicuramente un Natale caldo. Direi che questi sono i principali argomenti di borsa, come sempre, della giornata. L'euro a 1,0401 sul dollaro. Andiamo al nostro tema del giorno. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo. Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, quante volte gliel'abbiamo fatta sentire questa canzone? Mi stavo giusto chiedendo chi la canta, perché non ce lo siamo mai detti. Domandone, chi la canta? Ah, non lo so, guarda, facciamo il domandone. Certo. No, facciamo il domandone. Guarda, dai, no, vabbè. Dai, dai, su. No, ma facciamolo, ma io non ho la risposta però, quindi devono, cioè, adesso, fanno un po' la marzullata, perché si fanno la domanda e si danno una risposta stamattina. Ma se Marco la sa. Marco la sa? È certo. Ma pensa, anche le parole ormai, a forza di questo pure noi, perché la cantiamo sempre. Aiuto, intanto, aiuto, buongiorno a tutti e buon Natale. Esatto, ha visto, senza scampanellamenti, senza canti di Natale, noi il nostro Natale lo festeggiamo in maniera diversa. Allora, mutui in crescita, tassi di default in miglioramento nonostante la frenata delle surroghe e i tassi che segnano una modesta, lenta ma comunque evidente tendenza al rialzo. Questo è lo scenario che si presenta in questo momento sui finanziamenti per l'acquisto degli immobili. Proprio nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha incrociato una serie di dati. L'ultimo bollettino della Banca d'Italia, il 41esimo osservatorio sul credito al dettaglio di Assofin, CRIF e Prometeia e dell'osservatorio mutuionline.it. Commenteremo anche noi questa mattina insieme queste considerazioni, ma soprattutto cercheremo di capire che suggerimenti dare a chi vede il 2017 come l'anno giusto per chiedere un mutuo per la sua prima casa. A questo punto avrei dovuto dire: con noi torna Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Line, ma l'abbiamo già salutato, quindi ben ritrovato. Grazie. Subito anche per i nostri ascoltatori l'invito a chiamarci all'800 24 00 24. Allora, non solo per rispondere al nostro incredibile domandone di questa mattina, ma voglio chiedervi anche se il 2016 è stato per voi l'anno della ricerca del mutuo. Come si è conclusa la ricerca? Avete trovato quello giusto? Oppure avete messo questo grande passo fra le vostre sfide personali e familiari finanziarie del 2017? Chiamateci oppure scriveteci al 349-238-6666. Siamo pronti qui a commentare la vostra scelta insieme a nostro Roberto Anedda. Allora Anedda, andiamo subito a fare un punto della situazione su quello che è accaduto in questo ricco 2016, che si è confermato ancora un anno molto favorevole dal punto di vista, appunto, delle condizioni praticate dal mercato sui mutui, un anno che ha presentato delle condizioni che probabilmente per il futuro forse non si presenteranno mai più. Adesso andiamo anche a fare ai nostri ascoltatori qualche cifra di quell'osservatorio, appunto, che dicevo prima, ma ci faccia un po' lei un suo punto di vista personale sul contesto che abbiamo in questo momento da commentare. Rimane favorevole alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti per la casa oppure stanno cominciando a farsi sentire le turbolenze finanziarie che stanno investendo in particolar modo il settore bancario italiano? Oh, al momento in realtà no, i tassi sono ancora sui minimi storici o vicini ai minimi storici che proprio quest'anno abbiamo toccato, e come ricordato poc'anzi è stato un anno d'oro, scusate, per i mutui, proprio per il fatto che tassi del genere non si erano mai visti, non solo sui variabili ma soprattutto sui fissi. Abbiamo visto, e tuttora abbiamo, tassi fissi sotto il 2%, e questo ha sicuramente destato l'attenzione di tanti che erano in attesa, magari anche da tempo, per un'occasione di acquisto immobiliare. Nel frattempo sono scesi anche i prezzi degli immobili dopo parecchi anni di calo, e quindi il momento è sicuramente è stato favorevole e lo è tuttora, perché il mercato immobiliare si riprende, ma certo, comunque con molta tranquillità, e per il momento, almeno sulle migliori offerte di mutuo, non ci sono segnali di particolari rialzi. Sulla curva cosiddetta dei tassi, cioè il lungo termine del costo del denaro, 20 e 30 anni, e ci sono stati dei rialzi, ma questi per ora non si sono abbattuti o riverberati sui tassi stessi. Quindi le banche hanno preferito, almeno per il momento, mantenere sui livelli che avevano fin dall'inizio del mese. E le offerte, sicuramente da gennaio vedremo quale sarà l'eventuale cambio di strategia degli istituti. È un nuovo anno, quindi un nuovo anno di bilancio e di fatturati per le banche. Quindi qualche assestamento è possibile? Qualche assestamento, vedere. Ma diciamo che anche per quello che sono state le dichiarazioni di Draghi nell'ultima riunione della BCE di dicembre. Insomma, la prospettiva è che almeno per il 2017 il costo del denaro nel breve non si muova, è stato comunque rinnovato e prolungato il QE, quindi questo famoso Euribor negativo, meno 0,30, meno 0,37, molto probabilmente, fortunatamente lo vedremo ancora per una buona parte dell'anno. Potrebbe esserci nel corso dell'anno qualche piccolo rincaro per quanto riguarda i fissi, proprio per il fatto che fanno invece riferimento a orizzonti temporali più lunghi per quanto riguarda il costo del denaro, ma tutto sommato la prospettiva è che si rimanga in un'area di estrema convenienza. Allora, in genere proviamo a non sbilanciarci, ma in questo caso forse vale la pena farlo anche il 2017. Insomma, per chi vuole ancorare ad una condizione estremamente vantaggiosa il proprio mutuo e avere la certezza di pagare una rata molto contenuta, almeno in termini di tassi di interesse per un lunghissimo termine, credo che vale la pena assolutamente bloccarlo. Perché, poi, ecco, chiaramente soprattutto in per questa chi situazione... ha redditi fissi, l'indicazione è sempre quella. Insomma, per uno stipendio magari contenuto e fisso, una situazione abbastanza stabile dal punto di vista economico della famiglia, direi che esattamente non c'è proprio storia. E allora ricordo ancora 800 24 00 24. Comunque, adesso, a parte le nostre considerazioni, anche almeno dal punto di vista delle erogazioni che passano attraverso il vostro circuito, Anedda, sono i mutui a tasso fisso che continuano ad avere la maggiore, certamente i tre quarti dei mutui erogati quest'anno, sia per quanto riguarda la nostra piattaforma che poi anche sul mercato generale, sono stati proprio mutui a tasso fisso, e questo per il fatto che con tassi così bassi, per quanto i variabili fossero ancora più bassi, perché i variabili addirittura sono sotto l'1%, ma questo piccolo differenziale, tutto sommato meno di un punto di differenza tra i tassi variabili e i tassi fissi, ha indotto molti a preferire il fisso, proprio per il fatto che innanzitutto si garantivano un tasso mai visto prima ed estremamente conveniente, quindi anche nel lungo termine del mutuo il costo del mutuo stesso e la sua rata mensile sono più contenute e permettono alla famiglia di gestirlo meglio all'interno del proprio bilancio familiare. Ma poi soprattutto, rispetto alle differenze a cui eravamo abituati tra fissi e variabili con 2 o 3 punti percentuali di differenza, una differenza così esigua fa sì che un domani, appena i tassi dovessero cominciare a risalire, quel differenziale di vantaggio, diciamo così, per il variabile si esaurirebbe rapidamente, ponendo a rischio chi invece si è indebitato a variabile un domani di trovarsi a pagare delle rate più elevate rispetto a quello che avrebbe pagato col fisso. Quindi attenzione, insomma, chiaramente lo ribadiamo sempre, i tassi di interesse non aumenteranno a breve. Detto questo, in un raggio temporale, che ne so, di 4-5 anni riprenderanno a salire, lo speriamo quantomeno anche un po', perché sarebbe un'indicazione di un quadro economico in miglioramento, per cui attenzione che la rata potrebbe modificarsi sensibilmente. Allora, direi che è il momento di andare a sentire il traffico, poi andremo a sentire anche alcuni dei nostri ascoltatori. Abbiamo anche un'altra intervista, perché vi presenteremo un libro, Le famiglie e la casa, quindi ancora tante cose interessanti che bollono nella nostra pentola. A tra poco. Cuore e denari. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. Eh sì, casa, dolce casa, però qualche volta, insomma, per poterci godere pienamente di questo regalo che a molti ovviamente ancora piace farsi, per fortuna il mercato immobiliare italiano, pur nella crisi, ancora piuttosto vivace, gli italiani sono affezionatissimi al mattone, insomma, qualche volta però realizzare questo sogno significa indebitarsi per un lungo periodo di tempo, per un numero molto alto di anni. Allora, a che condizioni fare questa operazione? Stiamo parlando di mutui, questa mattina stiamo parlando di casa. È tornata a trovarci Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Abbiamo esaurito rapidamente il bilancio del 2016, ora ci interessa capire invece che scelte fare nel 2017, ponendo una condizione appunto di partenza molto rilevante. Le condizioni appunto sono molto vantaggiose ancora, sia per il tasso fisso che per il tasso variabile, lo rimarranno probabilmente ancora per un lungo periodo di tempo, e quindi che cosa è meglio fare a seconda delle proprie condizioni economiche, personali e familiari. 800 24 00 24, aiuto, ho fatto il mutuo. Intanto abbiamo lanciato anche il domandone e molte si stanno candidando a rispondere sul gruppo che canta questa divertente canzonetta appunto che spesso utilizziamo per la nostra trasmissione. Allora, prima di continuare la nostra chiacchierata e di introdurre anche il prossimo ospite, direi di sentire anche Anedda, un ascoltatore. Fabio da Vicenza, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie mille e complimenti per la trasmissione. Ascolta, io telefonavo per raccontare brevemente la mia esperienza. Io ho 35 anni, ho ricevuto un mutuo quest'anno di un importo abbastanza notevole, 230.000 euro per un tasso fisso di 35 anni, quindi un arco temporale molto lungo, però insomma lungo. Lei lo ha bloccato ad un livello che probabilmente in futuro forse non vedremo mai più, Fabio, quindi sicuramente c'è questo vantaggio. Proprio 2,50 finito come mm-hmm. tasso. Sì. Però devo dire che non tutto è così semplice, nel senso che la pubblicità molte volte è ingannevole. Pur avendo avuto tutti i parametri a disposizione, pur avendo un reddito che copriva ampiamente questo la rata che veniva profilata. Le hanno fatto le pulci, Fabio, volevano mille garanzie. Ho dovuto fare la garanzia dei miei genitori, cioè io un reddito che copriva ben oltre, la rata era inferiore del 20% del mio reddito, e ho dovuto fare una bella assicurazione anche sopra, immagino. L'assicurazione sono riuscito all'ultimo a togliermi, nel senso a farla esterna, perché la stessa assicurazione a parametri uguali, la mia banca richiedeva circa 30.000 euro in più rispetto a quello che mi vergogna. Ha fatto. Lo so, Fabio. Rispetto a quello che mi ha fatto il mio assicuratore. Sì, no, ma infatti il punto è quello che poi tendono a proporre la loro, in pieno conflitto di interessi ovviamente, e tendono a tutelarsi quanto più possibile, quindi facendola pagare anche molto di più. Fabio, l'ha portata a casa lei il mutuo oppure alla fine? Sì, sono riuscito, ma dopo sei mesi per la conferma. Ma altre vie non le aveva esplorate, perché mi pare che... No. Era l'unico istituto, diciamo, bancario che dava un arco temporale così di questo ampio. Tipo, certo. Allora, Fabio, detto questo, il tema è ci sono due o tre aspetti, comunque vantaggioso alla fine la spuntata, Fabio, però per la banca evidentemente in un momento come questo erogare 230.000 euro non era proprio un'operazione di poco conto. Gliel'ha fatta pagare fino all'ultimo, gliel'ha fatto sudare la banca, sì, ecco, Fabio, sì, mettiamola così. Devo dire, dispiace poi dover fare non le pulci ma comunque analizzare poi le scelte dell'ascoltatore, che ha anche sofferto tutto l'iter, perché obiettivamente ci sono alcuni aspetti che forse potevano portare a una soluzione migliore, evidentemente con una banca diversa. Innanzitutto, una durata di 35 anni, lo commentavamo prima anche fuori onda, è notevole per un mutuo, ma soprattutto per gli interessi che matura rispetto al vantaggio che si ha in termini di riduzione di rata mensile. Perché sappiamo che all'allungarsi della durata del mutuo, è vero che si pagano complessivamente più interessi, ma si riesce a ridurre l'importo della rata e quindi certo, a renderla più gestibile e rientrare magari più facilmente nei parametri di finanziamento. Ora, se non ho capito male, il mutuo fatto da Fabio portava, o meglio porta, con questi 35 anni, a una rata del 20%, addirittura sotto il 20% del proprio reddito, considerando che le banche mediamente arrivano tranquillamente fino almeno un terzo, quindi 30-35%, forse questo mutuo poteva essere come minimo riportato a una durata, per quanto lunga, di 30 anni, con un vantaggio notevole in termini di interessi in meno pagati, perché sono veramente tanti interessi in più, anche solo per 5 anni aggiuntivi ai 30, con una rata che tutto sommato sarebbe cambiata poco. Non gli cambiava la vita. E quindi rimanendo ampiamente all'interno del finanziamento, ma soprattutto probabilmente con un tasso. Evidentemente lui voleva più fare il mutuo con la rata invisibile. Proprio non avvertire minimamente. Può essere anche una scelta personale, legittima. Poi bisognerebbe fare i calcoli più... Lei lo fa la considerazione puramente di carattere economico, insomma. Poi probabilmente... Sì, ma nel senso che forse alla fine la rata non sarebbe stata molto diversa, perché il tasso del 2,50 non è comunque basso. Consideriamo che adesso per un mutuo trentennale andiamo su un tasso all'1,90, al 2%. Quindi insomma, mezzo punto non è poco su 230.000. Allora, Fabio, euro. Facciamo una bella roba. Adesso intanto lei cominci a pagare, poi se la situazione si mantiene così favorevole, pronti alla surroga l'anno prossimo. Era la seconda cosa che stavo per dire. Figuriamo. Il mercato si è un po' ridotto adesso, ridimensionato, quello delle surroghe, anche perché tutto quello che c'era da cambiare è stato probabilmente cambiato, però funziona ancora. E magari Fabio l'anno prossimo, stuzzicato un po' dalle sue riflessioni, Anedda lo potrà fare. No, sicuramente vale la pena. Allora, Marco Marcatili, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno, benvenuto. Marco Marcatili è un amico di Cuore Denari, ma è anche responsabile sviluppo dell'area immobiliare e territorio ambiente di Nomisma. E insieme ad altri colleghi appunto di Nomisma ha curato questa pubblicazione. Le famiglie e la casa, vecchi sogni e nuove realtà. Perché, Marco, non possiamo ignorare gli effetti e i cambiamenti portati dalla crisi economica in questi anni anche nel rapporto che c'è fra la famiglia italiana e l'abitazione. Avete pubblicato questo libro, un instant book, che vuole proprio portare uno sguardo, possiamo dire, innovativo sul rapporto fra famiglia e casa e aprire anche possibilmente un dibattito pubblico, no? Su quello che è cambiato in termini di questo rapporto, che è molto stretto, storicamente considerato almeno tale. Insomma, che cosa raccontate di nuovo? Sì, intanto grazie. Direi sguardo innovativo, ma soprattutto rischioso e coraggioso, perché tentiamo di scovare da alcuni numeri anche una nuova concezione che le nuove generazioni hanno di questo rapporto con la casa che deriva dai nostri genitori. Sappiamo tutti che i nostri genitori hanno suonato una vita e ritenevano la casa come una tana, un rifugio, no? Anche il termine appartamento ha voluto dire in questi anni il volersi appartare in un'idea di casa come investimento, ma anche in un'idea di casa molto chiusa. Allora, le quattro idee che abbiamo voluto riportare in questo instant book molto veloce, perché sono si chiama instant pagine, book per questo, esatto. Esatto, pochissime pagine e alcuni dati. Il primo è che la casa non è più una tana, non è più un rifugio. Ovviamente non è più, vuol dire, come dire, emergono i primi segnali del fatto che la casa non sarà più, perché sappiamo bene che ancora lo è, e gli effetti del terremoto hanno anche fatto vedere che la casa è una tana per molte famiglie. Ma nonostante le condizioni convenienti, insomma, tasse e prezzi, noi vediamo un raffreddamento della domanda. Lo scorso anno erano 3 milioni di famiglie che si affacciavano potenzialmente a questo mercato, certo. In questo anno sono 2 milioni di famiglie. Abbiamo allora 40 perché... secondi, Marco, possiamo concludere, grazie. Sì, assolutamente. Allora, perché non è una tana per tutti? Perché c'è il fattore C, che non è quello a cui noi stiamo pensando, ma ma il fattore cicogna o il fattore credito? Il fattore cicogna vuol dire che se nasci in una famiglia fortunata, la tua famiglia può permettersi di comprare una casa per te, ma anche il fattore credito, che è incentivante per comprare una casa, ma non è abilitante per una parte di nuove generazioni, di nuove famiglie che non possono vedersi soddisfatta la propria molto richiesta. Bello, Marco, grazie per essere stato con noi. Mandacene qualcuno di questi instant book che li regaliamo ai nostri ascoltatori, che sono sempre molto interessati a questo argomento. Noi ci fermiamo, adesso abbiamo il giornale radio, ma torniamo subito con Roberto Anedda, con Nicoletta e con tutti i nostri argomenti in programma per oggi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Allora, non avendo nessun'altra idea brillante, oggi ce la siamo fatta venire in diretta questa mattina parlando di mutui, naturalmente, e così scherzando un po' sul fatto che utilizziamo spesso questa canzone per arricchire dal punto di vista della colonna sonora il nostro programma, abbiamo lanciato il quizzettone di oggi, Nicoletta. E abbiamo invitato i nostri ascoltatori a fare in che cosa? In realtà l'idea è venuta a Roberto Anedda, però. Sì. Perché la domanda ha detto, ecco, chi è che canta questa, esatto, canzone? E a te è venuta la seconda idea di fare, allora lanciamo il quizzettone. E l'hanno, come dire, azzeccata la risposta alcuni ascoltatori che ci hanno scritto l'SMS. Abbiamo invitato a chiamarci, invece hanno preferito scriverci un messaggio. Massimiliano, Alessandro da Milano e Ugo da Torino, che contatteremo, invieremo loro probabilmente il CD di questo strepitoso gruppo autore di questa canzone. E allora, non so se è il frontman, come si chiama, il portavoce, Francesco Mastrangelo, buongiorno. Ma te avresti, ciao, mai immaginato questa mattina di ricevere questa telefonata? No. È un po' la stessa cosa, cioè, di come accendere un mutuo, che uno magari non se l'immagina quando lo deve accendere. No, Francesco, diciamo chi sei stamattina, perché sennò penseranno che siamo impazzite in onda. Francesco è il cantante dei Punti in Espansione. Punti in espansione, che da quanto avete scritto questo brano? Aiuto, aiuto, fatti il muro. Che per noi è un tormentone. Esatto. Sì. Il cioè pezzo è cioè contenuto nel nostro disco, che si chiama Trentenni Sofisticati, cioè che è uscito nel 2011 per Udu Records. E allora è, esatto, è diventato ormai un nostro punto di riferimento, Francesco. Sì. Io te lo dico, e adesso non farcela pagare con i diritti, eccetera. Vedi di non, che non ci sia nessuna ritorsione, però la utilizziamo spesso per arricchire il nostro Siamo programma. Siamo davvero contenti per questa bella notizia. E comunque, senti, no, ma c'è Nicoletta che ha una richiesta. Allora, per te. Dopo i Mutui, io mi aspetto almeno una canzone sulla prostata. Sulla prossima, certo. Vabbè, lì scusa, perché sennò è solo Deborah può lanciare i vostri pezzi, e quindi insomma, dalla testa ai piedi trova qualcosa, fate una canzone anche per la salute. Non sul cuore, perché il tema sul è già ampiamente coperto, direi, però su altre parti del tendini, corpo, tendini, legamenti, cervello, naso, olfatto, la prostata. Allora, andrebbe forte ancora, cioè, siamo tutti in buona salute, quindi siccome comunque le canzoni partono sempre da un input autobiografico, speriamo che arrivi il più tardi possibile. Allora. Senti, no, Francesco, autobiografico, quindi il mutuo a chi toccava di te e dei tuoi colleghi? A chi è toccato? L'hai fatto tu? Sì, a me per comprare una chitarra. Cioè, hai fatto il mutuo per comprare la chitarra? Sì, per comprare la chitarra, o cioè, anche, cioè, che ne so, poi c'è stato il bassista che ha comprato, che ne so, la lavastoviglie a mutuo. Col prestito, certo. Sì, quindi ancora non cose troppo incombenti come può essere l'acquisto, Francesco, di un immobile. Esatto. Complimenti comunque per la vostra fantasia. Grazie per essere stato grazie con noi, Francesco Buon Mastrangelo, cantante dei Punti in Espansione, che questa mattina così abbiamo voluto scomodare per sentire l'autore della canzone, che ormai è un nostro classico. Complimenti comunque per la scelta. Per la scelta. Certo. Ottimo, buon Natale Francesco. Ritorniamo per oddio. Gli ultimi minuti insieme a Roberto Anedda. Ritorniamo ai nostri mutui, a quelli di chi invece, non tanto cantando, va in banca appunto e deve provare a sottoscriverli e a portarlo a casa, un mutuo. Tra l'altro avevo chiesto a Roberto Anedda di farci anche così, di visualizzarlo, un mutuo possibile, magari ipotizzando che una famiglia vada in banca in questo momento a chiedere 100.000 euro, vuole indebitarsi per 20 anni, ci fa due esempi di rate e tassi? Sì, diciamo che ipotizzando un finanziamento sul 65%, quindi due del terzi valore del valore casa. Dell'immobile, al momento per un ventennale siamo per il variabile sotto l'1%, quindi allo 0,90, che vorrebbe dire una rata di 455 euro mensili. Con il fisso si passa all'1,65 per una rata che è comunque sotto i 500 euro, quindi 490. Volendosi spostare su durata più lunga, ma non oltre i 30 anni, non 35, come assolutamente lei, no. Lei non sponsorizza anche quella obiettivamente durata temporale. Come testimoniava anche Fabio, è difficile da trovare. Ma su un trentennale si sale all'1,09 di tasso per il variabile, ma la rata scende in questo caso, ovvio. Quindi siamo a 325 euro. Con il fisso si sale all'1,90 di tasso e la rata è di 365 euro. Allora, intanto le domande che ci sono arrivate questa mattina sono veramente tantissime. Diciamo che c'è proprio una richiesta brutale di dare indicazioni. Faccio il fisso e il variabile. Ragazzi, qua non possiamo dare un'indicazione secca in questo modo. Bisognerebbe conoscere tutte le vostre condizioni finanziarie, per quanto tempo volete indebitarvi e soprattutto uno shock sui tassi. Sareste capaci appunto di sopportarlo? Non è dietro l'angolo. Detto questo, l'abbiamo già visto nel passato, quante volte l'abbiamo detto, Anedda, per cui bisogna ipotizzare anche uno scenario estremo di quel tipo. Sì, sareste sì, in grado di pagare, esatto, una rata che esplode nel giro di 6-8 mesi? Quindi ecco, il tema importante è quello. Stanno ritornando anche i famosi mutui al 100% del valore della casa, Anedda, perché molti ascoltatori appunto, siccome stiamo parlando di un mercato ripresa, pensano che stiano ritornando sul mercato anche quei mutui là, quindi se devi comprare una casa per cui devi tirar fuori 200.000 euro, vogliono andare a chiedere un mutuo di pari importo. Noi questa soluzione non la caldeggiamo mai. No, però perché obiettivamente il mercato la offre. È comunque impegnativa, ma il mercato stesso in questo momento non la offre. Si può arrivare al massimo, ma solo con alcuni istituti, al 90-95% del valore dell'immobile. È lo stesso, molto che comunque è tanto, però tenendo presente che si tratta di soluzioni che sono molto più costose. Per fare un esempio, cioè su un 90-95% lo spread che viene applicato dalla banca sale oltre il 2%, mentre al momento siamo tra l'1 e l'1,20, quindi si paga oltre un punto percentuale in più ad andare bene per quel, su tutto il capitale, tra l'altro, quindi diventa un mutuo sicuramente molto più oneroso rispetto a quello che si avrebbe, certo, con un... Chiaramente se non si ha il capitale a disposizione è un limite, ecco, inevitabilmente, però fino all'80% c'è ampia varietà di soluzioni e poco costose. Spostandosi oltre, le soluzioni diventano molto poche, ripeto, purtroppo alquanto costoso. Sentane, da un ascoltatore ci stava chiedendo, intanto ci la sta raggiungendo anche un altro gradito ospite della nostra trasmissione di oggi, quante volte è possibile surrogare? Allora, anche lì, attenzione a questa pratica che poi alla fine indispettisce un po' le gambe, le banche, sì, vabbè, ho avuto un lapsus, non so per quale motivo. Salutistico. Probabilmente. No, perché uno pensa che questo cambiamento magari possa essere fatto una volta all'anno, inseguendo un po' anche lo scenario sui tassi di interesse. Attenzione, perché invece magari, ecco, un paio di volte un istituto di credito ve lo consente, ma la terza volta che si va a bussare ad una banca nuova, magari questa dice no, tu sei il famoso surrogatore seriale di Vito Lops. No, te lo ricordi? Sì, Roberto, sì, come no. No, quindi, infatti ne parliamo spesso, proprio perché effettivamente con la surroga di volta in volta bisogna cambiare banca, quindi ci si sottopone comunque all'esame preventivo della banca stessa, che va a vedere qual è il mio passato creditizio. E chiaramente in questi anni ci sono state delle situazioni di mercato veramente molto diverse. Siamo passati da tassi ai minimi, poi di nuovo ai massimi per la crisi greca, e poi adesso ai minimi storici assoluti, quindi è ovvio che chi ha fatto il mutuo in questi anni sia passato attraverso situazioni molto diverse che lo possano aver messo in condizione di surrogare anche, certo, più volte. E chiaramente, se poi non si parla di una surroga fatta ogni sei mesi o dopo un anno, la banca ne può tener conto. Detto questo, se non ci sono situazioni di questo tipo, cioè se rispetto al mutuo che io avevo surrogato anche più volte preventivamente non c'è un cambio epocale di condizione, è più difficile che la banca trovi giustificazione alla surroga stessa, e sospettando quindi che si tratti di un cliente che, per, come dire, anche l'abilità emotiva senta di voler cambiare mutuo anche solo per tirar giù il tasso di pochi decimi di punto, piuttosto rinuncia. Infatti, allora, prima di salutarla le sottopongo un altro caso, Nedda, quello di Luca da Piacenza. Peraltro avevamo visto già anticipata la sua domanda e così ci stavamo proprio un po' interrogando per quale motivo un aspetto importante delle credenziali che Luca presenta alla banca, appunto, non viene tenuto in considerazione. Luca, benvenuto, rapidissimo, grazie. Sì, sarò rapidissimo. Buongiorno. Io l'anno prossimo vorrei stipulare un mutuo di circa 120.000 euro. Sì. E abbiamo già dato il 20% dell'immobile, quindi l'80% già sarà finanziato. Ecco, rapidissimamente, praticamente siamo andati in banca, io faccio l'autista, ho un reddito di circa netto, circa 2.200 euro, 2.300, e la rata in teoria dovrebbe essere sui 620-630, quindi dentro di un terzo. Ampiamente. Più, 16, più, sì, esatto. Mia moglie è una docente, purtroppo precaria, ma sapete com'è la storia delle scuole. Ecco, ma ammettendo di rimanere al suo reddito, Luca, ci siamo ampiamente. Qual è il punto? La banca mi ha fatto delle storie. Mi ha detto, queste praticamente la paga base 1.600 euro, tutte le altre trasferte Italia. Sì, ho capito, ma un autista quando prende sul camion per forza prende la trasferta Italia, tutto qua. E quindi non le considerano un po' questa parte variabile probabilmente dello stipendio? Vabbè, intanto magari bisognerebbe fare un giro in un'altra banca che forse potrebbe essere un po' più serena nel considerare anche questo aspetto. Anedda. Sì, no, il punto è proprio questo, che rispetto alla banca iniziale, che sia la propria banca o meno a cui ci si rivolge, da una banca all'altra può veramente cambiare tanto. Anche Fabio prima parlava della la mia banca. Ecco, questa è una cosa che bisogna un po' superare, perché si deve tener conto che, parlando di offerte, siccome non è la tua e non ti fanno nessuna condizione. L'ha insegnato di più volte anche Lopes con i suoi libri e le sue analisi. Se si sceglie bene la banca, si azzecca il mutuo in questo caso, perché altrimenti si rischia di pagare mediamente un 700-750 euro in più all'anno, certo, proprio perché si è scelto non la banca giusta, non la più conveniente. Anche in questo caso vale la pena verificare con altre banche se la propria situazione è reddituale, quindi anche questa composizione di busta paga, extra e così via, un'altra banca, vista anche l'operazione di mutuo sicuramente non impegnativa e non rischiosa, possa valutarla in maniera più Chiudo solamente con un ultimo aspetto che mi viene in mente dal caso di Luca. Lui ha già dato una caparra per la casa, si è quindi impegnato ancora prima di aver avuto la certezza che una banca concedesse il mutuo. Fate attenzione, perché questo direi che è pericoloso. Non vorrei che si spaventasse adesso Luca, ma è un errore molto ricorrente, ma che tenderei a suggerire di non fare. Quindi prima andate in banca, valutate, vedete fino a che punto la banca può accontentarvi nell'erogazione del mutuo, poi andate a fare una proposta d'acquisto e ad andare appunto a firmare e a dare un anticipo per l'acquisto della casa. Allora, grazie Roberto Anedda, buon Natale. No, grazie a voi. Questa bella colonna sonora con cui la lasciamo in questa puntata. E noi abbiamo una canzone anche per fare il cambio argomento, certo. Canta il tuo ospite. Non l'ho preparato, ma volendo per la prossima volta, chissà. Intanto cambiamo. Un anno si chiude e noi per l'occasione abbiamo organizzato una puntata speciale, una sorta di riepilogo dei temi che abbiamo trattato nel 2016, un anno che è stato ricco di novità interessanti. Il nostro uomo è arrivato, il direttore scientifico del progetto Salute Uomo. Che onore! Perché Andrea, che onere! Che onore, che onere! Andate a leggere, ecco, l'editoriale di oggi, Andrea, pubblicato e soprattutto andate a leggere anche i testi, i racconti, le mail che ci sono arrivate, le storie degli ascoltatori che stanno animando la nuova rubrica di Salute Uomo, Il piccolo grande uomo. Allora, intanto ciao. Ciao a tutti. Buongiorno. No. Buongiorno. Allora, buongiorno. Senti Andrea, il 2016 lo ricorderemo come l'anno che o l'anno in cui, e naturalmente di questo giro anche questa proposta agli ascoltatori. Che... Sì, mi sembra molto bello proporre loro di proporci quali siano stati i temi che più li hanno interessati. Di tutte le tematiche che abbiamo trattato nell'arco di questi 12 mesi circa, fatto salvo per agosto, penso che una di quelle che sia rimasta più in mente alle persone sia stata relativa al trapianto del pene. Credo che quella abbia un po' scosso non le coscienze, perché di certo quello no, ma da un punto di vista intellettuale ha scosso sicuramente l'interesse delle persone. Primo, perché ci si è rivolti a quel tema con un certo grado di quasi curiosità, lussuriosa curiosità da un certo punto di vista, ma quando ci siamo messi a leggere per bene, parola dopo parola, quanto quella notizia ci stesse raccontando, ci siamo resi conto di quale importanza abbia il trapianto del pene in quanto tale per il sentirsi maschio, uomo, virile. Quindi quella secondo me è rimasta una delle notizie importanti. Nell'arco di quest'anno abbiamo parlato però di tanti aspetti. Un'altra di quelle che mi viene in mente è l'argomento relativo alla tecnologia e la salute, e in ambito urologico tanto abbiamo discusso dell'importanza ad esempio della chirurgia robotica, che ormai è diventata quella che gli inglesi dicono un po' motivazione per andare dal medico, o meglio il paziente che sceglie la tipologia di intervento o di cura che preferirebbe ricevere e a cui preferirebbe sottoporsi. E questo un po' ha cambiato, se vogliamo, gli orizzonti della medicina e del far medicina negli anni 2010, perché è vero che abbiamo a disposizione della tecnologia straordinaria, che solo 10 anni fa sarebbe stato impensabile, ma dietro la tecnologia c'è sempre una persona che controlla e governa e dice alla macchina che cosa fare. Poi è sempre vero che la macchina sbaglia poco e che l'uomo sbaglia di più, ma da un punto di vista pratico è molto bello pensare alla medicina del futuro come connubio dei due mondi, dell'anima, cioè dell'uomo, e dell'anima macchina, che è tecnologia allo stato puro. Abbiamo parlato tante volte di prevenzione, l'abbiamo fatto come prevenzione giovanile, prevenzione della riproduzione, prevenzione della vita sessuale, prevenzione metabolica, prevenzione cardiologica. Ecco, di tutti questi temi credo ci si debba ricordare quest'anno. Ne abbiamo sviscerati dedicandoci prevalentemente o esclusivamente al mondo maschile, che, torniamo a dire, è un po', sì, il sesso forte, ma un po' bistrattato, perché poche sono le rubriche lo diciamo con un po' di orgoglio, certo, Nicoletta, siamo certo anche stati tanto copiati, questo sì, è molto bello. Vantiamo numerose imitazioni. Sì, esatto. Ieri una paziente, ma è assolutamente vero, ieri una signora mi diceva, sa che voi avete inventato un modo di fare, non radio, perché non è certo vero, voi eravate molto più bravi di quanto io fossi arrivato, ma avete inventato un modo pacato di parlare di salute, cosa che non è sempre vera, perché spesso si parla di salute gridando, ed è molto seguito il vostro modo di far salute, e questo, se vogliamo, tra le righe vuol dire c'è qualcun altro. E chi è questa signora? Altro. Perché non c'è una signora di è Luciana, ha 83 anni ed è una meravigliosa signora. È il nostro nuovo idolo da questa sì, mattina. Eccoci qua. Ottimo, Luciana, un abbraccio. Allora, Andrea, puntata dopo puntata abbiamo scritto, direi, una sorta di vademecum della salute al maschile, sì, e lo abbiamo fatto tante volte proprio partendo dai segnali che ogni uomo dovrebbe conoscere e imparare a riconoscere per avere sotto controllo il suo stato di salute. Ne cito alcuno: dal bisogno di alzarsi nel cuore della notte per andare in bagno, al sangue nelle urine, al calo del desiderio sessuale, senza trascurare anche segnali meno sospetti, come il dolore all'alluce oppure la mancanza di energia. Abbiamo raccontato di tutto questo e mi piace risottolineare quanto tu accennassi prima. Scriveteci, perché le vostre storie che arrivano per la rubrica Il piccolo grande uomo sono motivo di grande interesse in primo luogo. Ne arrivano tante, ma sono ciascuna di loro una storia diversa con una problematica molto spesso poco sviscerata dalla medicina tradizionale quando ci si rivolge all'uomo. Banalmente l'aspetto del desiderio sessuale e del calo di energia ci riporta ad uno dei temi più discussi nell'ambito maschile, che è quello della terapia con testosterone, il calo del testosterone. Se solo pensaste a quanto gli ultimi 30 anni abbiano significato in termini di terapia ormonale per le signore che abbiano raggiunto il periodo della menopausa, di quanto si sia discusso e di quanto poco lo si sia fatto dal versante maschile, beh, quelli sono già due segni che ci permettono di dire: attenzione, mettiamo i puntini sulle i per capire se il nostro paziente, il nostro uomo, abbia un calo di testosterone, ad esempio. Se volete parlare, noi siamo qua, 800 24 00 24, raccogliamo tutti i vostri dubbi, le vostre domande, perché anche voi dovete fare la vostra parte qui, e anche suggerirci, perché no, la vostra ricetta di benessere. L'invito è aperto anche alle nostre ascoltatrici, perché spesso sono le donne ad occuparsi del benessere e della salute del loro compagno, a stimolarli, figlio, marito, fratello e collega ad occuparsene. Allora, che fate e che suggerite di fare per investire in salute? E Deborah, tu diresti nel breve o nel lungo nel periodo? Lungo periodo. Ecco, in entrambi i casi. C'è anche il medio. Ecco, aspettiamo naturalmente i vostri consigli, che possono spaziare dalla cura alla pelle, all'alimentazione, al pensiero positivo, alla gestione delle emozioni, o a consigli, perché no, per scolpire i muscoli. Condivideteli con noi, chiamate il nostro numero verde. Ad ogni consiglio dato, un libro sarà abbinato, previa approvazione naturalmente del nostro dottore. Professor Salonia, direttore scientifico di questo progetto. Allora, un grande piacere. Andrea, partiamo subito dai fondamentali. I 5 segnali che un uomo deve conoscere per proteggere la salute del suo apparato urogenitale. Quindi partiamo dall'idraulica. L'idraulica è fondamentale. Da urologo mi viene da sottolineare il fatto che non si debba trascurare la necessità di andare spesso in bagno ad urinare, soprattutto se questo avviene con urgenza durante la notte. Non si deve trascurare il fatto di mettersi davanti al water e non tanto pretendere di vincere la gara come quando si era dei ragazzini. Io peraltro non ho mai vinto, non so perché, ma da un punto di vista oggettivo, il fatto che la pipì cada sulla tazza o cada addirittura sui piedi è un brutto segno. Spesso si tende a sottostimarne l'importanza, ma è un secondo brutto segno. Il fatto che ci sia bruciore quando si va ad urinare, anche questo non è un segno assolutamente da sottostimare, soprattutto perché siamo abituati a pensare che le famose cistiti, le infezioni, siano tipiche delle signore, siano tipiche delle ragazze o delle signore in menopausa. Non è vero, ahimè. Ci sono infezioni anche molto importanti nella popolazione maschile. Non trascurate il fatto che ci siano piccolissime necessità di andare in bagno con tanta urgenza e piccole perdite di urina. Anche quello è un segnale. Non bisogna vergognarsi del fatto di avere questo tipo di disturbi. E da ultimo, l'utilizzo del torchio addominale, cioè devo spingere con la pancia per potermi svuotare e alla fine della fiera mi sento ancora con la vescica piena. Beh, questi sono cinque elementi che vanno a sottolineare l'importanza di un controllo idraulico. Quattro consigli, così anche il nostro architetto è contento. Che dici? Salutiamolo 5, con affetto. E vogliamo salutare e fare anche gli auguri al nostro Marco, che ci scrive sempre. Sì, ci tormenta anche un po'. Dovremmo forse prendere un po' di provvedimenti. Se non la smette, forse sarà il caso di cominciare. Facciamogli degli auguri, esatto. Che sia un anno più sereno. Esatto, per lui e i suoi messaggi sempre un po' polemici. Allora, sì. Andiamo ai quattro consigli per proteggere la fertilità, Andrea. In primo luogo è importante che la mamma o chi per lei ci racconti se quando siamo nati tutto fosse a posto, e in epoca pediatrica tutto fosse a posto. In primo luogo i testicoli al loro posto. Spesso questo è un dato che si misconosce o si trascura o al quale non si dà tanto peso. Ahimè, quella condizione che si chiama criptorchidismo, che vuol dire i testicoli sono ritenuti nel canale inguinale, cioè non sono ancora arrivati all'interno dello scroto, di quella sacca che permette al testicolo di vivere bene, di avere un'adeguata temperatura, un'adeguata struttura. Una culla, insomma. Esattamente. Quello è un dato da tenere in considerazione. In secondo luogo, mai trascurare problematiche relative a quello che chiamiamo varicocele, il che vuol dire una dilatazione delle vene sopra il testicolo, prevalentemente il testicolo di sinistra, che si associa ad un incremento di temperatura e ad altri danni del testicolo, che ahimè si riverberano anche sul testicolo di destra. Bene, questo vuol dire che una valutazione in epoca adolescenziale o preadolescenziale non è mai da trascurare, soprattutto quando si vuole diventare papà, in animo di fare uno spermiogramma, non andare a dilazionare questa scelta. Spermiogramma vuol dire raccogliere del liquido seminale e andare a studiare se vi siano spermatozoi, se ci siano spermatozoi in numero giusto, e qui i numeri credo abbiano un significato, se si muovono in modo corretto, perché questo sarà già prodromico di una potenziale genitorialità futura. E da ultimo, attenzione ad evitare la possibilità di contrarre infezioni anche tramite rapporti sessualmente trasmessi. Perché rapporti a rischio? No. Perché le infezioni, ahimè, non hanno solo un significato di prendo l'HIV, che è il tipico segnale di pericolo, cioè la richiesta di aiuto che arriva da chi abbia avuto un rapporto non protetto, ma ci sono moltissime infezioni che danno pochissimi segni di sé, che sono molto più probabili, che minacciano seriamente la fertilità di un individuo. Adesso ci fermiamo, sì. Subito dopo i mercati, le tre abitudini che vanno abbandonate a vantaggio di una sana e soddisfacente vita sessuale, e poi le due cose da fare ogni giorno per mantenersi attivi sia nel fisico che nella mente, naturalmente poi i vostri interventi, mercati, e sì, torniamo. E torniamo tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati. Salute con uomo, con in salute beh, uomo, che dai. Comunque mi pare una buona idea. Beh, è fondamentale. Ci dobbiamo investire per tutto l'anno. A me piacerebbe capire il signor Marchionne, ad esempio, come investe in salute uomo. Mi piacerebbe proprio capirlo, visto i successi. Ma facciamo un libro, Andrea, dai. Sarebbe dai. Meraviglioso. Mettiamoci alla ricerca, andiamo a caccia di queste informazioni, ma chissà se ce le danno, perché insomma sono, certo. Sono un po' private, però noi possiamo anche metterle in modo totalmente anonimo. Beh, certo, esatto. A due belle signore come voi non direbbero di no. E allora, bravo, adoriamo gli uomini bugiardi. Allora, eravamo alle tre abitudini che vanno abbandonate a vantaggio di una sana e soddisfacente vita sessuale. Poi arriveremo alla nostra rubrica Il piccolo grande uomo, che questa settimana ha come protagonista un signore maturo. E questo ci fa molto piacere, perché ci siamo resi conto che abbiamo un po' trascurato gli uomini over 60. Rimediamo subito, anche perché è un target molto interessante e che rispetto alle passate generazioni riserva delle sorprese anche per un andrologo. Quindi, ad esempio, si vive una seconda giovinezza anche dal punto di vista dell'attività sessuale. Affronteremo naturalmente questo tema, forse lo accenneremo solo, ma intanto 800 24 00 24 per raccontarci la vostra esperienza. Allora, a proposito, come mantenere una sana e soddisfacente vita sessuale? Beh, innanzitutto ci sono quelli che si chiamano fattori di rischio modificabili, che devono essere modificati laddove possibile. Il primo, e che ahimè non mi stancherò mai di sottolineare, è la necessità di una cessazione del fumo di sigaretta. Questo è assolutamente banale, difficile per lo più, ma molto banale, ed è tutto a vantaggio non solo della salute della sessualità in quanto tale, ma se considerassimo la salute sessuale come prodromica o specchio della salute tutta dell'individuo, al maschile, vero anche al femminile, ma quantomeno al maschile, beh, smettere di fumare non può che essere panacea di tutti i mali. Un altro aspetto, a mio avviso, importante è abbandonare l'utilizzo di quei farmaci che vengono, ahimè, ancora spesso utilizzati a scopo di tipo anabolizzante. Quindi per Scolpire per i muscoli. Sì, io adoro andare in palestra, riesco ad andare molto poco, ma frequentando il mondo delle palestre mi sono reso conto che purtroppo ci sono ancora molti errori, e questo è veramente importante. Un'altra abitudine che va abbandonata, al di là di tutti i recreazionali che vanno dagli stupefacenti e quant'altro, che sono ovviamente poco utili, beh, ancora una volta abbandonate la possibilità di andare a fare sesso in modo estemporaneo e a rischio, perché ahimè ancora una volta la possibilità di contrarre infezioni di cui ci si pente in un secondo momento è elevatissima. Queste che sembrano tre banalità sono però tre, se vogliamo, regole cardini dello stato di salute sessuale. E poi è vero che c'è tutto il pro, tutto ciò che è pro, che va da faccio attività fisica, mangio bene, mangio la mediterranea, mi tengo in forma. Sono tutti elementi molto semplici nella quotidianità, ma estremamente importanti. Allora, voglio leggere, Deborah, un messaggio che è arrivato da una nostra amica che ci scrive. Che bello, un'amica. Ho consigliato a mio marito di 46 anni una prima visita dall'urologo. Giusto. Proprio perché non ne aveva mai fatto una, ma il dottore è rimasto quasi stupito che fosse andata a fare la visita di controllo, visto che non aveva problemi specifici. E io mi sono presa un bel, ma te l'avevo detto che non c'era bisogno. Ma i dottori, ci chiede l'amica, non dovrebbero sollecitare i controlli preventivi? Grazie per aver fatto questa segnalazione. Tante grazie. Ecco. Io deontologicamente non dico che cosa pensi di quel collega che ha redarguito. Il co mi ha messo un po'. No, deontologicamente, certo. Che cosa pensi di quel collega che ha erroneamente, a mio avviso, redarguito la signora e il signore che sono andati a farsi valutare. Partite dall'idea che, ahimè, oggi si è ridetto, straridetto, che mancando la visita medica del servizio di leva i ragazzi non si facciano più valutare. Purtroppo è vero, da fortissimo antimilitarista quale io sono, ritengo fosse una follia fare il servizio militare, ma quella era per molti l'unica possibilità di farsi valutare a livello dei genitali esterni, perché da macio quale si pensa di poter essere, gli aspetti di salute dei genitali vengono spesso trascurati. È invece importantissimo fare una visita preventiva, perché a quell'età cominciano a manifestarsi problemi spesso misconosciuti. Tantissimi uomini attorno ai 40 anni lamentano difficoltà nell'urinare, di cui si sono praticamente non accorti, perché hanno pian piano avuto un'abitudine ad un disturbo. Vado un pochino più spesso, mi alzo durante la notte, devo spingere, mi cade la pipì dopo aver terminato di urinare. Questi sono già segni, banalmente, di una patologia che non è per forza di cose la prostata, che tutti abbiamo, e non per forza di cose tutti abbiamo ammalati, ma tutti noi maschietti ovviamente, ma di un quadro che noi chiamiamo sclerosi del collo vescicale, che è una problematica pseudocongenita di cui a 40 anni ormai abbiamo tutti i segni e i sintomi, e se non ci facciamo valutare quindi andate a fare la pipì e chiamateci, in sostanza, ad esempio, no? Potrebbe essere un invito. Adesso abbiamo una batteria di domande. Lavatevi le mani, però, anche. Lavatevi le mani, ecco, e centrate la tazza. Beh, perché si potrebbe fare un'epopea, ecco, di racconti, sì, su questa sulla cosa tazza. Mi lavo le mani prima, dopo, durante, rinforzo quando. Il nostro libro, sì, assolutamente. assolutamente. Alberto, cioè, che la farete dove voi cade la pipì? Voi lo fate dal punto di vista della salute, io mi occupo degli uomini dannarosi, prestigiosi che abbiano fatto investimenti in salute, rendono disponibili a raccontarci come approcciano questo argomento della serie. Bene. Anche i ricchi fanno la pipì. Alberto da Verona, Uber da Mantova e Franco da Bari, vediamo se tu hai una buona memoria, perché chiedo ai nostri ascoltatori di intervenire, li facciamo proprio una dietro l'altra e poi Andrea dà indicazioni. Alberto, è il suo momento, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Alberto. Via. Allora, molto velocemente due cose. Una, alla mattina appena mi sveglio, mi alzo dal letto, vado in bagno e vedo che il flusso dell'urina è molto piccolo, praticamente basso. E la seconda, quando ho un rapporto sessuale, volevo chiedere se era normale che il flusso dello sperma fosse inferiore rispetto a quello di anni fa. Anch'io ho fatto la visita dall'urologo per la prostata l'anno scorso. E anche lì il medico mi ha detto in pratica cosa ci sono venuto a fare. Vedi questi medici, Alberto, Andrea. Allora, Alberto, hai registrato, okay. Non ho capito solo quanti anni avesse Alberto. 51. 51, grazie Alberto. Andiamo a Mantova? Sì. Deborah, c'è Uber. Sì. Raggiungere col treno difficilissima, però. Buongiorno. Bellissimo. Buongiorno, mi sente? Sì. Salve. No, io il mio intervento era più di carattere, diciamo concettuale e psicologico. Bravo, ci piace anche questo. Vada, Uber. Ecco, a prescindere dall'atto dove ci sono delle disfunzioni, dei problemi fisiologici, fisici o biologici. Prima parlava di desiderio, di testosterone e quant'altro. Io lo facevo più che, nel senso, se uno è sposato da 30 anni, 40 anni o un sacco di anni, è chiaro che il desiderio o il testosterone, come diceva, il livello può essere molto basso, ma magari non è sempre detto che sia una causa fisiologica o biologica, è semplicemente il fatto di essere stato per una vita con una donna. Cioè subentra un po' l'abitudine smorza, esatto, un po'. Quando invece succede che c'è il rinnovamento, succede che c'è una nuova situazione emozionale, serena o vivace, tutto questo torna alle stelle e senza nessun problema, cioè senza nessun problema. Quindi di carattere Uber, psicologico. Uber ci invita a sottolineare l'aspetto psicologico. Franco invece da Bari, buongiorno. Buongiorno. Sì, io volevo sottolineare l'aspetto sessuale dopo i 55 anni, dopo i 50 anni. Sì. Cioè l'uomo, diciamo, con la testa cerca sempre più o meno di fare sesso, eccetera, perché è una cosa un po' mentale. Sì, hanno anche misurato quante volte in un'ora un uomo pensi al sesso, ci sono anche delle ricerche che si sono sbizzarrite. È più facile fare il contrario. Franco, allora gli uomini... Allora, il problema è che la donna praticamente dopo quell'età non ci pensa proprio. O se per esempio non deve fare, lo fa tipo la faccenda domestica, giusto per fare, quando prima si lubrica meglio è. Sono anche degli uomini che lo fanno con la stessa modalità comunque. Comunque Franco, bisognerebbe... Allora Franco, quindi anche Franco dice noi vorremmo, ma sono le donne che poi si spengono. Uber invece diceva magari è la frequentazione, storie lunghe, si perde un po' l'entusiasmo. Alberto invece ci porta in bagno con lui. Se siete andati a fare la pipì, tornate. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme. Tra poco arriverà anche il dottor Speciani, con cui parleremo di alimentazione, trucchi, consigli, raccomandazioni per sopravvivere a queste feste. Andiamo e torniamo. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme in questa puntata natalizia di Salute Uomo, che l'abbiamo giocata un po' in anticipo. Andrea, facciamo risposta ai nostri ascoltatori. A Franco e a Uber insieme. Sì. Il primo elemento di cui tutti quelli che si occupano di sessualità, di medicina sessuale o di psicologia della sessualità sanno è che i due elementi, biologia, quindi corpo, e psicologia della sessualità, ahimè, non si possono disgiungere. Il che significa che anche nelle persone in cui è chiaro è chiara la presenza di un problema organico. Vi faccio un esempio banale. Ho subito un intervento importante che mi porta a non riuscire ad avere sesso. Ora, anche in quel caso, la componente psicologica ha un impatto enorme. Io posso trovare una soluzione medica, chirurgica per aiutare quell'uomo, ma se la componente psicologica viene a mancare o è in qualche modo inficiata, ahimè, la sessualità sarà inficiata in toto. Questo è vero nel mondo delle coppie e gli amici, tutti quelli che ci hanno scritto, non solo Franco a cui facciamo riferimento. Il mondo delle coppie è il mondo più variegato che esista, cioè si parla di ecologia della sessualità, per cui al di là dell'atto on off, ho un rapporto o non ho un rapporto, ho un'erezione o non ho un'erezione, talvolta ho un'eiaculazione più o meno rilevante, guardate che questo è uno dei problemi che più spesso viene riferito, ma c'è un calo progressivo del volume eiaculato nel corso degli anni. Bene, tutti questi aspetti hanno sempre un contorno che è lo stato socioculturale, lo stato educazionale, l'ambito familiare in cui ci si viene a trovare, la singletudine o meno dell'individuo. Sono tutti elementi importantissimi ed è vero che la componente al femminile della coppia ha una certa qua responsabilità. Vi dico solo che mentre dal punto di vista medico siamo... se vogliamo molto avanti nello studio della sessualità al maschile, dal punto di vista medico non psicologico, la sessualità al femminile, ahimè, è stata pochissimo studiata, si è cominciato a studiarla 20 anni fa e quindi tutti gli aiuti che riusciamo a dare in questo caso, se posso dire, partono dalla componente maschile per arrivare alla componente femminile. Torno invece al primo degli amici, Alberto, e alle sue difficoltà nel fare la pipì quando al mattino mi pongo davanti al water e cade molto debole. Il primo problema si chiama opsuria, io mi metto davanti al water e non parte. Il secondo problema si chiama mito ipovalido. Ad un uomo di 51 anni è corretto pensare di far fare una valutazione urologica completa, che vuol dire sì andare a fare una visita. Oggi si utilizzano moltissimo delle domande e queste domande spesso si trasformano in test psicometrici, che sono non altro se non questionari. Il più famoso in ambito urologico, che è anche sul nostro sito di Salute Uomo, si chiama IPSS, che è un test fatto di sole 7 domande che ci permette di dare un punteggio alla severità dei disturbi. Ora, la medicina, la matematica e i test non fanno parte dello stesso mondo e nessun test ci permetterà di fare una diagnosi, però ci aiutano e aiutano anche la persona che viene dal medico a farsi aiutare. Per cui questo amico Alberto che ha questi disturbi a 51 anni, è bene che un urologo lo veda e torno a dire è bene che comunque lo veda anche un uomo di 45 anni in buona salute, perché la prevenzione si fa come prevenzione primaria laddove evito che i problemi compaiano e quindi certo, una valutazione è sempre importante. Anzi, ce l'auguriamo. Assolutamente, no? Sì. Allora, la nostra rubrica Il piccolo grande uomo ha come protagonista un uomo maturo, Angelo, che ha quasi 71 anni e ci racconta un brutto rapporto con la sua memoria, tanto che ci chiede di occuparsi anche di noi uomini che perdiamo la memoria. Potete leggere la sua lettera, ma ascoltarla anche, perché abbiamo anche la versione audio. Di memoria ce ne occuperemo sicuramente, ma sì, intanto e soprattutto ci occuperemo anche di questo target molto interessante degli over 60 che sì, ha delle caratteristiche molto particolari. Ormai parliamo in coppia. No, ma questa è la sintonia. Il primo elemento è che un uomo di 60 anni e più con calo di memoria non deve mai trascurare questo aspetto, perché spesso si dice ma sarà solo l'età. Beh, cali di memoria nascondono problematiche vascolari, problematiche di tipo psichiatrico depressivo, problematiche ansiose, alterazioni del sonno, ancora una volta alterazione dei livelli di testosterone circolanti. Sono problemi che non vanno mai trascurati. Il nostro amico che ci ha scritto trovo abbia sollevato un problema enorme. Allora, e a proposito di memoria, noi non possiamo certo dimenticare l'appuntamento col dottor Attilio Speciani, che è in linea con noi, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, ma per noi di Cuore Denari, dottor Noce, buongiorno. Eccoci. E oggi in modo particolare, dottor Noce, perché se dobbiamo parlare del fatto che quando durante queste festività ci si può avvicinare sempre con moderazione, ma al brindisi, all'alcolico che viene bevuto, alla condivisione, agli auguri che vengono fatti, una delle cose che avviene più facilmente è che ci si trovi a bere praticamente a stomaco vuoto. Questo è deleterio, perché anche se si mantiene una quantità bassa di alcol, in realtà questo viene assorbito in modo immediato. C'è un trucco che aiuta sia a mantenere intanto a far funzionare la memoria, perché vi ho seguito adesso e quindi è utile dal punto di vista pratico, ma soprattutto a ridurre l'assorbimento dell'alcol. Il mangiare qualche mandorla, qualche noce, quindi dei semi oleosi, poco prima di fare un brindisi, è una tecnica che consente di ridurre la velocità con cui l'alcol viene assorbito, per cui anziché trovarsi immediatamente brilli e in maniera poco corretta con qualche chilo in più, questa cosa sazia, rende possibile avere un'azione di controllo dell'alcol e ci avviciniamo in maniera più garbata a poter fare con gioia i nostri auguri ai nostri amici e passare un periodo insieme positivo. Dottor Speciani, Andrea, abbiamo richieste dei nostri ascoltatori e credo che possiamo, sia il momento ideale per farlo, di suggerimenti alimentari per prevenire, come ci scrive Giorgio da Torino, piuttosto che curare i problemi urinari di cui abbiamo parlato. Volete darci anche qua indicazioni a pillole? Iniziamo dal dottor Speciani magari. Io poi ho un'idea relativa alla salute prostatica e all'alimentazione, ma credo che il nostro esperto sia sicuramente più bravo di quanto non possa essere io. Allora, dottor Speciani, dai brindisi delle feste delle indicazioni per i nostri ascoltatori per mantenersi sani, efficienti, prestanti, in buona salute. L'alimentazione aiuta anche gli uomini, naturalmente. Moltissimo. Abbiamo pochissimi minuti, ma vogliamo dare delle indicazioni mirate. Uno sulla noce, abbiamo detto prima, tre semi oleosi, sappiamo che interviene sui processi della memoria e quindi, al di là del fatto che voi mi chiamate dottor Noce, è un dato positivo l'utilizzo di questi semi, di questi grilli, sono fantastici e adatti. Secondo, proprio per rientrare anche nel tema che discutevate poco fa, il fatto di fare ogni tanto magari un pranzo o una cena di sole verdure e tisane, cioè come dire, di ripulirsi, quindi di togliere quell'aspetto infiammatorio che condiziona molti di quei sintomi che avete discusso poco fa, che sono di fronte al mattino, di fronte a questa prima pipì, con un fastidio perché c'è una congestione di tutti gli organi pelvici, mentre se riusciamo ad avere magari una serata di digiuno o di riduzione della quantità di sostanze che mangiamo, otteniamo un'azione di ripulizia complessiva, una migliore diuresi. Grazie al dottor Speciani. 30 secondi per Andrea. Beh, evitiamo, laddove soprattutto comincino a comparire i primi segni di difficoltà nell'urinare o di infiammazione della parte pelvica, come diceva giustamente il dottor Speciani, evitiamo un eccesso di cibi fritti, di cibi piccanti, di caffè, di cioccolato, di alcolici. Tutto quello che, come si dice, infiamma. Sì. Allora, noi torniamo domani. Salute Uomo torna il prossimo gennaio. Con l'anno nuovo. Tanti auguri a tutti. Noi domani con l'ultima puntata dell'anno di Investire Informati. Ancora ce ne abbiamo di cosine da fare. Altro che. E anche il dottor Speciani torna domani con noi per un riepiloghino. Grazie. Buona giornata, domani. Grazie a tutti.